Storielle. Storiacce. Ha contribuito a catture importanti come quella del pentito Totuccio Contorno o del boss Pietro Vernengo. Ha fatto le perizie sul computer di Giovanni Falcone ed è stato determinante nell'assoluzione per il senatore Marcello Dell'Utri. Le potrebbe citare tutte le inchieste a cui ha lavorato Gioacchino Genchi, il super perito già consulente del PM di Catanzaro Luigi De Magistris. Inchieste importanti, delicate, e per questo c'è chi ha sollevato perplessità su un così ampio archivio di dati sensibili, ma lui non fa che ripetere che i suoi lavori sono solo al servizio delle parti. Ricorda un altro perito, Michele Landi, morto in modo misterioso, e nega categorico ogni contatto con apparati di intelligence. Quante perizie lei avrà fatto in tutta la sua carriera? Guardi, se ci mettiamo anche le molestie telefoniche, i furti dei telefonini sulla spiaggia, duplicazione di CD-ROM, io in tutto in 20 anni ho fatto 675 attività. Che succede quando lei scrive la sua perizia dei dati che le sono stati messi a disposizione? Che succede? E vengono immediatamente consegnati, indicizzati in maniera ordinata, tra l'altro, al processo, e le parti si fanno le copie. E a lei cosa resta? A me resta la copia della relazione con la quale vado al processo. Quindi della sua perizia, quindi non c'è nessun archivio con i dati di queste 600 e oltre perizie? Ma i dati sono già elaborati nelle perizie, cioè le perizie basta che lei clicca con un clic e ottiene il risultato, quindi nella stessa perizia c'è la fruibilità che l'avvocato ha, per cui mi fa i complimenti e mi ringrazia pure. Questi sono dati che sono negli uffici giudiziari, non detengo io, non saprei cosa farmene, mi costerebbe pure gestirli. Insomma. E allora perché secondo lei il procuratore generale di Catanzaro, Favi, le ha revocato l'incarico perché appunto ritiene che lei abbia accumulato troppi dati sensibili? No, assolutamente, guardi, io non posso dirle perché lo ha fatto, no, però mi corre l'obbligo di smentirle che non, la revoca non è assolutamente dipesa da questo. Se una persona diventa pericolosa perché ha fatto troppa attività per conto dei giudici, io penso che forse è il caso che la giustizia in Italia chiuda definitivamente. Cioè, a me hanno trovato pure il conflitto di interessi con mia moglie, col fatto che abita in un palazzo confiscato alla mafia, col fatto di esistere, si rende conto? Cioè, che cosa devo fare io più di questo? Cioè, forse qualcuno voleva che io mi suicidassi, come è già successo per qualche mio collega, non lo so. A proposito di questo, lei ha conosciuto Michele Landi? Mai, mai. Ho letto solo sui giornali e purtroppo, nonostante ha fatto una tragica fine, mi sono solo messo a ridere. In che senso? Cioè, io non ho mai fatto di queste consulenze strane, di tutte queste attività per servizi segreti, per forze di polizia, per gruppi speciali. Io ho sempre lavorato alla luce del sole per dei magistrati che avevano tanto di tabella esterna della Repubblica dietro, da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino fino a Luigi De Magistris, perché sia chiaro, cioè io non ho mai frequentato questo ambiente. Io l'unica persona che ho saputo essere appartenente al SISDI l'ho incontrata nel 1992, perché era un amico del dottor Arnaldo La Barbera, mi fu presentato come tale ed è una degnissima persona, che è il dottor Luigi De Sena. L'ho incontrato per l'ultima volta nella primavera del 1993 e non l'ho più visto, e questa è l'unica persona appartenente ai servizi di sicurezza in Italia che io ho mai conosciuto nella pienezza delle funzioni. Ma capisce che significa blindarsi e fare una vita da soli, vedendosi solo Sky, evitando pure di andare al cinema per evitare di fare incontri sbagliati in questa città? Capisce che cosa significa vivere questa solitudine per garantire la propria verginità, la propria trasparenza, che viene messa a disposizione solo dello Stato e della giustizia? Ho fatto una scelta di tipo monacale, cioè a Palermo non si può contemporaneamente andare in gita in barca con l'avvocato e contemporaneamente poi fare con lo stesso avvocato il processo in corte d'assise, ma non perché l'avvocato è corrotto e colluso, ma perché nella vita bisogna imporsi una certa regola quando si fa un certo lavoro. Questo secondo lei Landi non l'aveva fatto? Io Landi non lo conosco, ho letto delle cose, conosceva un magistrato che era anche a Palermo, che ha rilasciato delle dichiarazioni, ma non so dirle assolutamente cosa è successo, se fosse consulente effettivo dell'autorità giudiziaria o fosse semplicemente uno che ha approntato dei lavori per conto di apparati investigativi. Io sicuramente non ho mai lavorato per apparati investigativi. Amato da alcuni, temuto da altri e da molti altri querelato per calunnia, Genchi respinge ogni attacco di chi solleva dubbi sull'uso della miriade di informazioni a sua disposizione, si schermisce dietro l'oggettività del suo lavoro da tecnico e ricorda come tutto questo sia cominciato per caso, anche per colpa di una pertica che non riuscì a salire. Io ero radioamatore da bambino, faccio gli studi giuridici, faccio varie domande, una in finanza, una in polizia, eccetera. Finanza, classifico il primo in Italia e mi bocciano perché non riesco a salire la pertica. Io per la verità, con i computer e con i libri, diciamo, con le radiotrasmittenti, con i primi telefoni portatili, mi davo di tu, ma sicuramente con le attrezzature sportive, diciamo, non avevo avuto, diciamo, una grossa confidenza. Entro in polizia per fare il servizio militare. Cioè non avevo intenzione di restare in polizia e iniziai a lavorare nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica e iniziai a collaborare con le strutture investigative, ma una cosa così quasi per gioco, iniziai a approntare le prime strutture, che so, per esempio era scappato da un carcere di Palermo un grosso mafioso palermitano che si chiamava Piero Vernengo. Noi varammo una rete di intercettazioni ambientali, furono le prime che furono fatte e furono una rivoluzione sul campo, diciamo, delle tecnologie. Lo stesso ad esempio quando fu individuata la famosa cabina telefonica e fu individuato il covo di Contor, un collaboratore che aveva dato grossi contributi alla giustizia, anche a Giovanni Falcone, che a un certo punto prese una strada sicuramente sbagliata. La polizia ha fatto un'indagine, io ho avuto un ruolo fondamentale, la polizia l'ha arrestato e Falcone l'ha fatto condannare. È vero che lei nel suo studio ha ancora il computer portatile di Giovanni Falcone? Io i dati che furono con la consulenza su cui ho deposto, diciamo, quello è, diciamo, un sosia del computer, nel senso che è la struttura gemella su cui copiamo, perché all'epoca non c'erano grandi attrezzature di backup, quindi abbiamo dovuto utilizzare un computer, l'identica copia di un Compaq che Falcone aveva nel suo ufficio in via Renula, da cui era partito l'ultima volta. Quindi lei fece la perizia sui computer del giudice? Fu una delle prime attività che io ho compiuto per conto della procura di Caltanissetta, con cui avevo anche collaborato nelle indagini sull'attentato alla Daur e nelle tristi vicende del Corvo. Quindi inchieste importantissime di mafia, come quelle successive alle stragi, inchieste di altro tipo, ecco, più recenti, come quelle di Catanzaro, come quelle del PM De Magistris. Lei come ha vissuto queste settimane di polemiche intorno alla procura di Catanzaro? Non posso dirle che le ho vissute bene, perché forse non ero preparato, occupandomi anche di inchieste importanti, di indagini di mafia. Io ho fatto inchieste su deputati, su senatori, su presidente del consiglio, però le confesso, nessuno mi ha mai dispensato questo tipo di attacchi, anzi le posso dire, cominciare dal senatore Marcello Dell'Utri, all'onorevole Cuffaro, il senatore Scalone, l'ex ministro Mannino, l'onorevole Giudici. Io ho fatto il mio lavoro con la massima dignità. Tra le assoluzioni più importanti dovute anche grazie alle sue perizie c'è quella del senatore Dell'Utri. In un processo, in uno è stato condannato, nell'altro è stato assolto. Cioè io faccio il mio lavoro secondo la mia coscienza. In quel processo di Dell'Utri la mia consulenza era stata espunta, esclusa dal processo, perché la difesa l'aveva fatto escludere. Secondo me non l'aveva manco letta. Qual è stato il lavoro che le ha dato più soddisfazione? Il lavoro in cui sono riuscito a dimostrare l'innocenza dell'imputato che era in carcere. E invece quello in cui avrebbe voluto far di più? Le indagini sono come le ciambelle della torta, insomma, non sempre vengono col buco. Le piacerebbe risolvere il caso della scomparsa della bimba Denise Pipitone? Sto lavorando intensamente a quell'indagine. Lo so, e per questo glielo chiedo. Io le posso dire che su quell'indagine con i magistrati di Marsala sono diversi anni che condividiamo il giorno e anche la notte. Lei è fiducioso sulla buona riuscita di questa inchiesta? Non posso dirle nulla. Le posso dire che è un'esperienza che vivo anche come padre, può portare a immedesimarsi molto in quella che è la sofferenza di quella madre, che è un esempio di grande coraggio civile, se non altro per la forza, per la determinazione che ancora riesce ad avere alla ricerca della verità sulla tragica scomparsa della figlia.